andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A Roma e a Milano le ragazze di 14 e 15 anni fanno quasi tutte le puttane con gente di 60 anni. Grazie, lei è un mito, l'amo. Arrivederla. Senza controllo sanitario. Conosci Alfredo Santamato? Mai cacato. Bonnezza, parlate di Pucciac. Amico mio. Ora io voglio dire, no, hai già commesso delle gaffe pazzesche. Mi sto rivolgendo in questo al ministro Poletti. Ah. Hai già fatto delle gaffe o comunque interpretate come gaffe, perché qualche volta il contenuto delle cose non è importante. È importante il modo in cui passa un messaggio. Certo. Non è così importante esattamente quello che hai detto, ma il modo in cui lo dici, il contesto in cui lo dici, il modo in cui viene recepito. Certo, qualche volta noi siamo dei pezzi di merda, non c'è dubbio. Anche tu, Parenzo, ogni tanto sei un pezzo di merda. Dottore, non può parlare volgare oggi, pressione molto alta. No, dottore, ha detto no parlare con miserabile stronzi che chiama, perché fai nervosile molto. Dottore, deve fare piccola cula, stare a casa, vedere le televisione. Io portale, dottore, ravioli, ricotta spinaci con solo olio di semi. Sì, ma guarda che così. Piccolo dessert parfait. Guardi che così, scusi, signor Filippino, signor Parenzo. Liposale, parlare solo con intellettuali, ha detto. Sì, ho capito, però volevo dire al Filippino di Parenzo che questo è il modo giusto per attirare in realtà la gente che chiama, capito? Dottore, signora, miserabili, vive in grande complesso, grande villa, zona molto residenziale, non ha mai contatti con miserabile, quindi no problema, dottore, ha detto. Vabbè, comunque parlavo di Poletti, Parenzo. Sì, sentiamo, parlavo di Poletti. Non quello della Rete 4, dalla vostra parte. E di Quinta Colonna, no. Diventato ormai praticamente un opinionista anti-Rom, anti-immigrati, eccetera. Sì. È stato anche deputato, può fare tutto Poletti, secondo me. Tutto. Persino Gigolò. Potrebbe fare il gigolò. Fa giornalista, bravissimo. Potrebbe fare, come lui. Ho detto potrebbe fare tutto, ma anche il gigolò. Secondo me, tu hai fatto il gigolò. Lui, anche Poletti potrebbe fare tutto, persino il gigolò. A me mi raccontano che sia uno anche da questo punto di vista. Ma adesso non me ce ne frega niente di questa roba. Ci interessa come fa il giornalista. Stavi parlando del ministro del lavoro Poletti, che ne ha combinata un'altra delle sue. Cosa ha detto? Ha detto la frase in audio non è ancora circolata bene, non è circolata in audio, in realtà è circolata naturalmente come contenuto, e ha detto esattamente questo: il rapporto di lavoro è prima di tutto un rapporto di fiducia, ed è per questo che lo si trova di più giocando a calcetto che mandando in giro dei curriculum, cioè con la socialità. Per questo è stato chiaramente massacrato. Ora, sicuramente Poletti non ha detto è meglio trovare lavoro giocando a calcetto piuttosto che mandando il curriculum. Era un'iperbole, potremmo dire, no? Amico mio Poletti, iperbole. Sì, non lo so, lascia perdere le definizioni, adesso non fare il professore, non è questo il punto. Il punto è, lo sai in che contesto vivi? In un contesto di pezzi di merda come siamo noi, perché noi siamo anche dei pezzi di merda. È inutile, Parenzo, che ti sottrai a questa definizione. Noi siamo anche dei pezzi di merda, mi sembra abbastanza chiaro. E dunque, quando tu dici, Poletti, questa frase, noi non andiamo a interpretare il famoso contesto, perché il messaggio che passa, caro ministro Poletti, non è quello, perché tu non devi essere tu a fare la fotografia, perché è vero che si trova più facilmente lavoro in alcuni settori con le relazioni piuttosto che con i curricula, non c'è dubbio che sia così. Dunque la fotografia è abbastanza, non c'è bisogno che ce lo racconti tu, lo sappiamo. Tu dovresti dire più spazio ai curricula, più spazio al merito, meno spazio ai rapporti personali, ai rapporti che si creano per esempio giocando a calcetto, come dice lui. E poi io a calcetto ho giocato tanti anni, non ho mai trovato lavoro in vita mia a calcetto. Cioè tu hai trovato lavoro, tu non hai mai giocato? No, non sai io giocare. Sì, sulla spiaggia giocavo anch'io al calcio balilla, certamente. Sì, d'accordo, però calcio balilla, cosa c'entra? Calcetto, no, non è calcetto balilla, il calcetto quello con le calcetto, quello che c'entra, quello... sono due cose diverse. Io giocavo al calcetto balilla, quello lì. Ma con cosa le... vuol dire? Sulla spiaggia. Ma quello, cioè, no, non muovevi paglia, muovevi le mani, là, i polsi. Muovevo le mani, certo, cioè, i polsi. Ah, vabbè, e il cervello. Ma no, che cervello, là. Mi hai chiesto, ti ho risposto. Vabbè, comunque, Poletti la spiega così. Poletti la spiega così. Vale molto il sapere e vale molto l'essere, vale molto studiare, imparare, conoscere, e vale altrettanto avere una buona relazione con la collettività, vivere con gli amici. Quindi questi due elementi debbono essere tenuti insieme. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale. Sì, però amico mio, soprattutto perché tu hai un figlio che prende, che ha preso, prende finanziamenti pubblici, che sicuramente non è arrivato al posto dov'è così per miracolo, ma anche, dico anche, perché c'è un padre che ha delle relazioni sociali. Per cui non fare queste robe qui, non dire queste robe qui, ma non ce ne frega niente della tua fotografia, delle esistenze. Dovresti dire basta, meglio il merito, meglio i curricula, piuttosto che le relazioni. Poi sappiamo che non è così, che funzioni in un altro modo, ma non c'è, ma non possiamo. Vabbè ragazzi, io sono disperato per la mancanza, cioè per l'incapacità totale di comunicazione di questa gente, cioè sono incapaci a comunicare totalmente. Perché non fai tu il portavoce di Poletti, Parenzo? Perché non fai il portavoce del signor Poletti? Io ho già l'impegno con la comunità rom, che devo dire mi porta via tanto lavoro, sai, vero, perché sì, 40.000 persone, ma sembra che siano un miliardo praticamente. Vabbè, adesso ogni stai dicendo, stai dicendo attribuito. Che sono discriminati, sì, dillo. Parenzo, due punti, a i rom sono discriminati. Io poi me ne vado perché oggi sono depresso, dai, anche molto stanco con la pressione alta. Ma non è vero. Però poi voglio dirti un'ultima cosa, sì, pressione alta. Però voglio dirti un'ultima cosa, ultima della giornata. Ma che ultima, che sono 18:42? Il caso ti ha. Dimmi il qualcosa. Diamo un antipasto, scaldati, poi entriamo, scaldati, sì. Poi entriamo con il coltello, sì, nel sì. Ventre molle di questo paese schifoso che fai ascoltare alle volte. Entriamo nel ventre molle. Ad Alatri non mi risulta vi sia alcun migrante / rifugiato / albanese / rom coinvolto in quella esecuzione di piazza. Forse un albanese, forse, però certamente non è un ruolo principale, forse. Mi pare che qualche giornale in questi giorni, non voglio citare il quotidiano Libero, già magistralmente diretto da Vittorio Feltri, né il quotidiano Il Giornale, né il quotidiano La Verità, chissà come mai questi tre giornali siti, rispettivi siti che attribuivano la paternità di questo massacro, di questa mattanza a dei signori albanesi. Io spero che questa sera ci sia una puntata speciale di Dalla Vostra Parte, non credo, di Quinta non Colonna credo, non credo, dedicato non al massacro di Alatri. Ci non sarà credo, non la credo. Puntata? No, non la credo. Puntata col Poletti collegato lì con la gente che dice i migranti, no caro Poletti, mi dispiace, bisognerebbe fermarlo un attimo, dire caro Poletti, caro Del Debbio, caro Belpietro, no, non sono stati migranti questa volta, sono state persone italianissime. Questo non c'è lo dubbio. Direte per o adesso no? Non c'è dubbio, per adesso sembra, no, che dicono, sia così. Io non lo so, io sto a quello che dicono i magistrati, perché quello come te, sto a quello che dicono. Cosa dicono i magistrati? E qua davvero chiudiamo e lasciamo la linea alla Confindustria, che ma ha tante cose vero, da dire. Ma sì, allora lasciamo la linea. La linea a chi? Lasciamo la linea, boccia della Confindustria. Ma non è vero, no? Sì, lasciamo un filo diretto, la gente si addormenta, dai. No, non si addormenta nessuno, lasciamo il filo diretto con loro, ma filo no, diretto. Ma non è sì, vero. Sì, filo diretto con la Confindustria. Allora i magistrati, smentendo le voci incontrollate corse inizialmente, hanno espressamente voluto chiarire due punti. Non sono coinvolti cittadini albanesi o stranieri. Fermiamoci qua. Linea alla Confindustria Viale dell'Astronomia. Filo diretto con loro per raccontare le cose straordinarie che stanno facendo, ad esempio sull'industria 4.0. Chiudiamo qua. Ma perché 5.0? No, si chiama 4.0 con Calenda, centinaio della Lega. Che centinaio della Lega. E basta uno, non centinaio. E basta uno solo della Lega. Che no? Chiede le dimissioni di Poletti. Hanno fatto un po' di bagarra al Senato, senti. Presidente, noi chiediamo, e le chiediamo in modo ufficiale, le dimissioni del ministro Poletti alla luce delle sue dichiarazioni che ha fatto ieri e che ha confermato oggi, cioè quella che i giovani italiani, anziché fare i curriculum, dovrebbero andare a giocare a calcetto. Per questo motivo noi regaliamo, Presidente, al ministro Poletti il pallone piccolino per andare a giocare a calcetto. E di togliere pallone, queste cose che... Presidente, quel pallone che serve al ministro Poletti per non essere un pallone gonfiato davanti ai cittadini italiani. Senatore Centinaio. A proposito dei Rom, senti i Rom della Magliana a Roma. Dare una cassa popolare, paghiamo le utenze, paghiamo tutto quello che è necessario. Importante è che non ci buttano sulla strada con i figli, con i nipotini. Ma qui cosa pagate adesso? Noi abbiamo pagato un tempo... Adesso la domanda. Adesso non paghiamo niente. Perché? Perché non chiede nessuno da noi nessuna lira. Cioè, sono anche sinceri, tu dici, Parenzo. Era Poletti che noi, sì, certo, no? Era Poletti. Noi non paghiamo niente oggi. Niente, ci diano la casa popolare. Posso rispondere alla Borghezio? Casa popolare, un cazzo! Casa popolare, ma non hanno diritto a nulla. Si mettono in graduatoria, se ne hanno i requisiti. Ma io dico, non è che la, messaggio non è che alle il baratto, messaggio non è alle... che il baratto, sì, è quello. Noi andiamo via dal nostro campo Rom e in cambio voi date casa popolare. No, non funziona così. Messaggio alle comunità Rom residenti, sì, sul suolo italico, è il vostro portavoce che parla. Rilasciate meno dichiarazioni possibili, per cortesia. Grazie. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Parenzo, sei un fottuto genio. Genio! Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta La Zanzara. Tio Ruciani, ero io con la mia ragazza e mentre stava rigovernando e pulendo la casuccia mi diceva: certo hanno rotto il cazzo, parlano solo sempre di Rom. Le stesse cose, Giuseppe. Trans, troie. Ti ascoltare te piuttosto che stare con me. Ecco, appunto. E, ma perché non si parla un po' di peli nel culo? Giovanni! Di odori vaginali. Giovanni! Di duroni. Con questo. Parenzo, discussioni normali in un interno familiare. Sì, che c'è un famoso film, no? Che è Interno di famiglia, credo. Se non sbaglio. Interno di famiglia. Non ragazzi, voglio difendere un signore. Parenzo sarà contrarissimo, naturalmente. Un signore di Catania. Uno che ha, si è appostato dentro la sua casa dopo un numero impressionante di furti subiti. Un signore che si chiama Caruso, Giuseppe Caruso. Un signore 73enne. Pensate, 73enne. Quelli che lo hanno aggredito più volte. Ladri che sono entrati in casa sua in un casolare in provincia di Catania avevano tra i 20 e i 30 anni. E questo signore, sfinito, distrutto da ruberie, furti, eccetera, una sera non ne può più, arma il suo fucile, si apposta dentro casa, entra un ladro, spara e uccide. Gli hanno dato a questo signore 17 anni di galera. Ancora non è in galera, è ancora a casa. 17 anni di galera. Giuseppe Caruso, ti voglio abbracciare fortissimo, caro Giuseppe. Io sono con te. Secondo i giudici, io sono con lui. Secondo i giudici, è omicidio volontario. Questo è un caso classico da Cruciani. Cioè, io dico che dentro la propria abitazione, dentro i propri possedimenti, si può fare qualsiasi cosa. Non ci si può appostare. Non mi interessa. Quello è entrato. Il problema è di chi protegge le proprie cose o di chi entra dentro casa altrui. Il problema è di chi entra dentro casa altrui. Ti ha detto anche la signora Cucinotta l'altro giorno, ti ha fatto una piccola lezione dall'alto, sì, della sua grazia. D'altra parte si chiama Maria Grazia, se non sbaglio, no? Sì, esatto, allora, bravo, si è appostato, il giudice ha detto questo, si è appostato, però non ti voglio sentire così scarico, perché mi sembri piuttosto depresso. Si è appostato con una pistola calibro 7,65, dice il giudice nella sua requisitoria a processo d'appello, e ha portato con sé non uno, ma ben due caricatori da 12 colpi. Era esasperato dalle continue ruberie subite, voleva farsi giustizia da sé. Era disposta a un'azione di guerriglia. Così dice il giudice. Capito? Così dice il giudice. Io sono dalla parte, non dalla vostra parte, dalla parte signor Caruso, capito? Che tu considererai sicuramente un assassino. Sicuramente un assassino. intanto ha preso 17 anni per essersi difeso all'interno delle sue proprietà, caro Parenzo. Inutile che fai silenzio, inutile che stai zitto, che osservi questa. No, ma osservo, ma certamente, perché mi pare talmente chiaro che un signore che è stato condannato forse a una pena eccessiva, che è quella di 17 anni, 17 forse probabilmente è troppo, ma che secondo i giudici ha fatto un omicidio volontario, amico mio, queste però sono le leggi che ci sono. Si, la legittima difesa difendeva la propria roba. La legittima difesa è un'altra cosa. Te lo vuoi mettere in testa? Sì, non te lo vuoi mettere in testa? Vai a Doha, vai in Oman. Ma che c'entra Doha? In Arabia Saudita, vai dove cazzo ti pare, ma in questo paese per ora le leggi sono queste, approvate dalla Lega peraltro. Vabbè ragazzi, andiamo a Macerata, vai Alessandro, iniziamo con Alessandro, vai. Pronto? Dimmi Alessandro, dimmi. Ciao, finalmente un'ora che aspetto di parlare, non ce la facevo più, cazzo. Ma un'ora no, perché siamo in onda da mezz'ora. Comunque vai. Sì, vabbè, dai. Dai, forza, vai. Mi mandano sempre in linea. Comunque, volevo ricordare un evento storico alla Zanzara. Storico. Quando avete intervistato il signor Semproni, Gianfranco Semproni. Vabbè, ma che c'entra adesso? Adesso ci devi Semproni. Ricordare un fatto storico. Chi se ne frega? Dai, Alessandro, vuoi dire? Allora, voglio dire che Parenzo, testa di cazzo. Sì? Buonasera, perché Semproni, lei. Benvenuto. Ultimamente. Benvenuto, buonasera. Grazie. Ultimamente ha fatto un intervento incredibile sulla riforma delle pensioni fino a 70 anni. Ha detto che noi giovani non ci arriveremo mai. Vabbè, allora, ma che c'entra Parenzo con la testa di cazzo? Scusa, non ho capito. Perché Parenzo è uno stronzo. Ma perché? Buonasera a lei, grazie di essere intervenuto in trasmissione. Buonasera. È arrivato il signor Semproni, ma chi è, chi non è, non lo conosco. Chi è Semproni? Certo che non lo conosco. Ma come chi è Semproni? Non conosco Semproni. Ma come non lo conosci Semproni? È una persona che parla come mangia, che è di cuore. Vabbè, adesso non è che possiamo fare una questione però su Semproni. Adesso non esageriamo. Mi puoi anche salutare, però ricordati a Parenzo che è il padre, lui non conta un cazzo. Vabbè, Luca dall'Aquila, Parenzo non conta un cazzo. Luca dall'Aquila, vai. Buonasera a tutti, sono Luca dall'Aquila e volevo soltanto far presente al signor Parenzo. Sì, buonasera, benvenuto, grazie per aver chiamato. Anche a lei. Sentiamo, adesso così bisogna fare, se no mi incazzo, lo mando fare il culo in 5 secondi. Prego, buonasera, benvuto. Grazie per aver telefonato all'800-2400-24. Vai, prego, vai, Luca, dimmi, dai. Dica Luca, sentiamo. Volevo soltanto ricordare al signor Parenzo che prima di fare delle osservazioni riguardo... i furti in casa, lei dovrebbe stare un po' attento, perché forse le persone che chiamano hanno attento. Avuto un furto in casa, quindi speriamo che ce lo abbia anch'io. Sì, andiamo avanti. Sì, no, sto curando, le sto semplicemente suggerendo di alcune volte evitare di andare oltre dei parametri di concetto che vanno al di là quello che può essere il momento. Grazie molte del consiglio. Vabbè Luca, Maurizio da Campobasso, non ha un cazzo da dire. Dai. Paese. Maurizio da Campobasso, dai. Buonasera Cruciani, buonasera dai. Parenzo. Senta, niente, voglio riferimento anche alla telefonata di ieri sera di quel signore di Ancona che ha subito ottima telefonata, È veramente una persona da ammirare, da abbracciare con tutta la stima possibile. Quello che io volevo mettere in evidenza, cioè non possiamo permettere alla gente di entrare nelle nostre abitazioni sistematicamente, tutte le nostre dobbiamo stare attenti. E allora? E allora il signore ha fatto bene a fare quello che ha fatto, perché nella propria proprietà la famiglia va tutelata al di fuori delle mura. Lei possiede armi? Io sono possessore di armi, ma perché ci lavoro con le armi, ahimè. Che fa con le armi? Io sono un agente di polizia. Ah, un agente di polizia. Anche riferimento a quello che poi ieri sera ha detto. Un agente di polizia in servizio oppure dismesso? No, in servizio, grazie a Dio, per carità. No, no, ma che ne so, magari magari hanno cacciato, che ne so. Però no. Che ne so. Assolutamente. Cioè, però, tu da agente di polizia dici: noi non possiamo arrivare dappertutto, è giusto che le persone si difendano. Ma tu lo sai, Parenzo, che il giudice che abbiamo intervistato ieri sera rischia il trasferimento. Esatto. Per le cose che ha detto, rischia il trasferimento, per aver detto delle cose ovvie, delle cose anche scontate. Cioè, rischia il trasferimento perché dice: è giusto. Cruciani, però un'altra cosa ti volevo, scusami se ti fermo. Cosa ti scandalizza? Il magistrato, quello che ieri sera ha messo in evidenza ed ha fatto bene, ha anche detto delle volte che sono le forze dell'ordine a arrivare tardi. ma noi non siamo tantissimi, non si può avere uno stato di polizia, avere un poliziotto ogni 100 metri. Intervenire, ma certo, quello che dico io è impossibile, anche dai. Molto ampio, è difficile, perché ma è impossibile, siamo dice, ogni siamo tanto questi pochi. Politici del cazzo che vanno in televisione a dire cose scontate dicono, beh, bisogna aumentare la sicurezza, bisogna aumentare la presenza, certo, sul territorio, ma sono tutte minchiate, è impossibile. E poi uno come stato militarizzato, metro per metro, è impossibile averlo, impossibile. Quindi la soluzione è armarsi tutti. La soluzione è ognuno, se vuole armarsi, lo faccia. E soprattutto così, dentro casa, dentro casa sparo e non mi condannano a 17 così. Anni entra la suocera, sparo, non mi interessa, mi assumo mi la responsabilità, mi dispiace, colpito la suocera, che vuoi fare? Che vuoi fare? Capita. Qualche dai. Volta non è manco negativo, ma ci pensi, no? Scherzo, ma tu Parenzo saresti capace pure di fare un appello e ospitare anche quelli dell'ISIS se vogliono venire in vacanza qua in Italia, eh? Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, la pubblicità. La Zanzara. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica. Col napalm. Fiamme nel campo Rom. Napalm. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Napalm. Ah, andiamo avanti. Più Richard Benson e meno Calcutta. Più Richard Benson e meno Calcutta. Calcutta, vai a lavorare, che ora. Ore 2 del mattino, Zanzibar. Ero ad amoreggiare sul lettino con una donna e parlavo della zanzara. Ad un certo punto le chiedo, di dove sei? E lei mi risponde, Mantova. E le dico, ma la città di Mauro? E lei mi dice, sì, sai che lo conosco. Cruciani, siamo al tappè, siamo al tappè. Chicco! Anche la pecora zanzarina si rifiuta di entrare nello studio di Cruciani per l'odore nauseante. Siamo al top. Ma insomma ragazzi, non è andata proprio così, eh? Non esageriamo, cioè, non voleva entrare semplicemente perché non entrava il coso. E poi comunque una capra non è che entra naturalmente in uno studio radiofonico. Poi non entrava la gabbia lì, dai. Comunque caro Parenzo, grande battaglia ieri sera. Ovviamente dove secondo te? Grande scontro. Fammi prova a indovinare che giorno era ieri. Non a Quark. No, Quark, non era Quark, no, non era Porta a Porta. Potrebbe essere dalla vostra parte. No, scusami, era Quinta Colonna. Quinta colonna. In francese come si dice in francese? Che magari suona meglio. Beh, lo sai che colonna non so come. Cinque si dice. No, la cinquième, la cinquième colonna. Facciamolo in francese, che è molto più bello. No, non suona bene. Allora, ragazzi, Meloni contro Cecchi Paone. Meloni contro Cecchi Paone. Lo vedo lucido ultimamente, però, mi piace molto. Parenzo, due punti. Vedo lucido Cecchi Paone. No, ma perché? Cioè, praticamente la pensi come Cecchi Paone, tu dillo esplicitamente. Spesso la pensi come Cecchi Paone. Il 99.9% delle cose che lui sostiene praticamente sono il programma elettorale. Meloni contro Cecchi Paone. Io senza Europa sarei fascista e fallito. Non è l'Unione Europea, scusi. Beh. Però è veramente, cioè, uno non è che può mettere insieme delle cose così. Ma se lei si studia la storia, il nazionalismo è fascista in sé. Quindi, aspetta, lei è fascista, scusi. Che noi abbiamo preso. Sì, ma guarda, io faccio politica da 25 anni e tutte le volte che ho trovato qualcuno che non mi sapeva rispondere perché non era abbastanza preparato. Io le sto rispondendo che la sovranità popolare è elettorale. Lei vuole la sovranità fascista e non l'avrà più. Lei è fascista, siccome vuole la sovranità, lei è fascista. Perché noi siamo la nazione che siamo, perché la nostra libertà, i nostri confini, l'abbiamo conquistata contro il fascismo, grazie agli americani e agli inglesi. Grazie agli americani, vabbè. Grazie agli americani e agli inglesi. Se era per voi, stavamo ancora col puzzone. Signor Cecchi Paone. Beh, questo, insomma, signor Cecchi questo Paone. Questo mi pare sì, sia vero, vero, no? No, se era per lei, adesso, ho capito, sarà per lei. Per voi, che no, lei non c'entra niente perché non è fascista assolutamente. Beh, insomma, ma adesso sarà stata anche fascista nel passato. No, non è possibile. Semmai post-fascista, sì, perché sì, il fascismo sì. è finito. Ma il mondo, diciamo, a cui lei fa riferimento, le sue radici, non lo so, quelle a cui si è ispirata, ma però, dopodiché, lei non è fascista assolutamente. La Germania è molto più forte di noi su tutte perché le esportazioni. Guadagna, loro hanno innova. Un tasso di disoccupazione al 5% perché minimo storico. Cose nuove. Noi no. abbiamo migliori. Un tasso di vada a vivere in Germania se le fa così schifo no, l'Italia. Perché non è voglio come si Voglio che si voglio che si produca bene anche qua. Vada a vivere in Germania, ma che argomento a Cecchi è, scusa. Paone. Ma siccome faceva l'esaltazione della Germania, no, di un paese che cresce perché investe, sviluppa, ma anche perché migranti, l'euro gli è convenuto alla Germania, è convenuto alla Germania, spende soldi per l'integrazione buona dei migranti. Ma cioè stai è facendo una società, stai è facendo una l'esaltazione anche tu della Germania? Assolutamente sì. L'esaltazione della Germania. Parenzo, assolutamente sì. Amo la Germania. Amo moltissimo la Germania. Parenzo, due punti. Amo la Merkel e la Germania. Due punti. Vorrei amo. Essere governato dalla sì, Germania. Vorrei molto di più. Vorrei essere governato dalla Germania e da Schäuble anche. Soprattutto dal da signor Tedesco. Sì, il ministro è delle una finanze. Carogna, assolutamente. È una carogna tremenda. Tu sei una carogna tremenda. Allora, il signor Paolo Ruffini mi comunica questo. Un episodio. Paolo Ruffini, ottimo. Paolo Ruffini. Un episodio che simpatico, è accaduto. Paolo. Che è accaduto. Beh, no, simpatico, di più che simpatico. Numero oltre uno, ad essere Paolo mio Ruffini. Amico, è anche molto simpatico. Ottimo, ma è un altro discorso, è un altro. Intanto mi mandava messaggi vocali con la sua Vabbè, amica. Ma come si chiama la sua amica? Quella... La signora Diana del Bufalo. La signora Diana del Bufalo, esatto. Giusto, bravo. Appunto, questo signora ti sto dicendo. Bufalo, bravissimo. Questo ti sto dicendo. Sì. Allora, era praticamente in giro con la signora del Bufalo. Mm. E vi leggo proprio una storia i due. Ma no, ma l'abbiamo detto qui alla Zanzara, sei indietro, certo, sì, sono ancora, praticamente ancora. Fidanzati, sì, perché mi purtroppo pare di sì. Le storie finiscono, iniziano. Vabbè, ho capito, ma perché sono adesso ancora devi, fidanzati? Devi augurare no, tutt'altro. La fine della storia no, della signora Ruffini, se ancora, del Bufalo. Volevo sapere se ancora ma non mi interessa, piace. Evidentemente sì, evidentemente bene, sì. Bene. Sì, ma non, cioè, non del è Bufalo. Allora, sono in giro con Diana, tutto perfetto, cinema ore 20 a seguire cena. Dunque questa è la prospettiva, no? Una sera qualsiasi di questo inizio di primavera. Tutto liscio, se non che mi dice: devo andare a casa, devo fare la cacca e posso farla solo a casa. Chi dice così, scusa? La signora del Bufalo, la signora Ruffini. Però domani sera, se ci sei, ci vediamo. Io, scusa, ma che vuol dire questo? Chiedo all'amico Ruffini, il quale mi risponde tranquillamente: cacca solo in casa. Big black boots. Ora del questo. Bufalo vabbè, questo però rinuncia sai. Praticamente all'organizzazione della serata perché riesce a cacare solo in casa. Sarà felice la signora del Bufalo che diciamo questa conversazione è diventata pubblica. Ha fatti i cazzi tuoi. No, non lo so. Beh, evidentemente felice, sì, se lo ha fatto signor Ruffini, signora sì, del Bufalo. Ruffini numero d'accordo. Uno. Scusami, signora del Bufalo. Ma perché devi tarpare le ali? Sappiamo quando evacua la signora del Bufalo. Mi capisci che è una notizia 19:25, sole 24 ore di domani. Fate presto, nel senso, fate presto a evacuare. Diana del Bufalo, due punti. Cacco sì. solo in casa, ecco, bellissimo. Scandalo a casa Ruffini, titola subito l'ottimo libro. Scandalo a casa Ruffini, la signora del Bufalo caga solo a casa. Siamo al guardate. Top, siamo al top, ragazzi. Sai che poi su libro mettono sempre guardate, no? Mettono sì, sempre guardate. Non c'è niente dentro. C'è sì. nulla, nulla, totalmente nulla. E questa è la genialità, però. Che uno pensa ci sia la foto, no? Scandalo a casa Ruffini, la signora del Bufalo caga solo a casa sua. Guarda, uno clicca e trova l'articolo. Perché uno immagina invece di trovare la foto della signora del Bufalo. Adesso del merito, non voglio entrare. Ecco che ha appena scritto Ruffini. Prossima settimana andiamo a cena noi, ti porto anche Diana già cacata, dice il professore. Appena scritto in tempo Fabiana reale, da Roma. Ruffini. Fabiana Ruffini. Da Roma. Numero uno Ruffini. Fabiana da Roma. Volevo dire due cose. Allora, innanzitutto, esaltazione sì. della Germania, mi fa piacere da che appunto appoggia. Vabbè, ma ognuno poi ha i propri miti. Quello c'ha il mito della Germania e della no. Merkel. Che cazzo vuoi fare? Ma certo, ha risanato capito, un paese. Ma... Però voglio dire, se l'Unione Europea fa tutte le politiche economiche sono a sì, favore ragazzi, della però Germania. Noi non ci vogliamo rompere i coglioni con i forum economia e focus economia qua, per no, cui però, non stiamo parlando di quello. Fabiana, di che volevi parlare? Non me ne frega un cazzo uno, di due, parlare della Emanuele, Germania. Emanuele, ragazzo di Alatri, sì. Siccome sentivo in trasmissione che appunto Davide era giustamente contento del fatto che non ci fossero coinvolti i ragazzi albanesi, ma non è un non è questo il punto è che devono essere puniti. Vabbè, questo lo sappiamo, ma che banalità, ma lo sappiamo che devono essere puniti veramente, certo. Allora che bisogna fare secondo te? Siccome sembrava che adesso fossimo contenti del fatto che non siano albanesi. Ma io non sono contento, è Parenzo che è contento, non è contento, dice. Io dove sono le trasmissioni che spesso mettono in luce i crimini degli immigrati adesso, esatto, dice Parenzo. Esatto. Dove sono queste trasmissioni? Dov'è Poletti? Ma perché non va ad Alatri? Voglio Poletti ad Alatri, questo Poletti deve dire. Il ministro, Poletti non il ministro, Poletti, Roberto Poletti. Poletti l'inviato di dalla mandalo vostra parte. Mandalo ad Alatri, diglielo, esatto, diglielo in faccia. Poletti, dove sei? Vai subito con la dove macchina. Dove sei Poletti? Dove sei? Prendi la macchina, vai ad Alatri e collega lì la piazza. Chi è? Fabiano che ha chiuso il telefono, si è rotto i coglioni. Marco da Pisa, vai. Marco, vai. Dimmi Marco, dai. Niente, ti volevo, siccome ora va di moda, no, gli aneddoti sui rom, volevo raccontarti la mia esperienza della mia maledizione. Che è successo con i rom? Che c'hai? Niente, praticamente io ero fuori dal supermercato, avevo comprato il pane normale. Sì. E niente, mi si è avvicinata una signora, sì, molto gentile, sì, con un bimbo che era completamente devastato. Sembrava avesse fatto serata con Umberto Smaila, Silvio Berlusconi e Gerry Calà, veramente. Questo bimbo era veramente incrinato, spaccato a merda, sudicissimo, stonato. Ma il bambino del rom, chi? Sì, il bambino che questa signora teneva per mano, sì, lo sorreggeva, sì, perché questo bimbo non stava in piedi. Vabbè, allora? E questa signora fa: ehi tu, dai soldi per bambino mangiare, mangiare bambino, mangiare bambino. Faccio: guarda, soldi non te li do, però io, guarda, ti do questo pezzo di schiacciata, cioè era focaccia in Toscana. Vabbè, allora? E niente, questa signora l'ha presa, l'ha buttata in terra e l'ha pestata. Una gran maleducata. E praticamente ha iniziato a fare dei gesti. Vabbè, adesso però... A dire delle cose... Che t'ha detto? Faceva tipo degli sputacchini un po' tu. E praticamente mi ha spiegato un mio amico di origine gitana... Sono stato maledetto, quindi visto che Parenzo, sei stato maledetto, adesso non sarei preoccupato, però non sarei particolarmente preoccupato perché sei stato maledetto da una rom. Io sono molto scaramantico, diciamo, no? Visto che Parenzo è il gran visir di tutti i rom, eccetera, è il portavoce, no, della comunità rom. Sì, è il portavoce della comunità, sì, rom. Non eletto, non sono stato eletto. Un purificatore per me per levarmi questa maledizione. Come si fa a togliere la maledizione a Marco da Pisa? Scusa. Bisogna collegarsi con un campo, o collegare un capo della... contattare il faraone nero, non lo so. No, faraone nero, dove è finito il faraone nero? C'è il faraone nero è ricoverato in una struttura specializzata. Otelma sarebbe va bene. Ciao Marco, ciao. Vi voglio benissimo, viva la topa. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Sciocca alla Zanzara. Giuseppe Cruciani, dopo i noti problemi al gruppo di Sole 24 Ore, cerca nuovi sbocchi di lavoro e cosa si inventa? Fa lo gigolo. 500 euro a prestazione. Giuseppe, quanto sei buono, guarda. Io ho parlato finora col mio fidanzato che è a Singapore. Mio Dio, ma tu sei di un buono da paura. Guarda, con te lo tradirei, giuro. Ti sto facendo una statua come il David di Donatello. Sì, però mettici una bella energia. Ma quindi tu suggerisci un piccolo... No, beh, se tu ci metti un gnocchetto non va buono, perché in un gnocchi di patate tu già metti. Io, per esempio, quando sono andata a Reggio Calabria a vedere i bronzi di Riaci, là dentro mi dici, te due bestie enormi, un certo momento, come si giri, gli vedi una piccarella, un pisello a cucire, ma mettici una bella energia, almeno un ci appennevano cappelle, qualche cosa, che cazzo. Semproni e i bronzi di Riace. Ma cosa fa esattamente Semproni nella vita? Ma oltre a adesso non trattare di... Semproni. Allora, Semproni è un personaggio straordinario perché faceva il rivenditore di liquori nei locali, il rappresentante di liquori, di champagne, eccetera, per tanti anni. Poi, siccome aveva pensavo la parlantina, fosse un dirigente della Treccani, no? No, siccome aveva la parlantina, sì, così piuttosto, no? Piuttosto sì, limitata, diciamo, un lessico piuttosto semplice. Ma che lessico semplice? No. Ma che cazzo dici? No. Assolutamente Semproni, no. Siccome aveva questo tipo di parlantina, sì. È stato ingaggiato da varie televisioni locali, poi è un grande appassionato di calcio, in d'accordo, particolare di Pescara, eccetera. Tutto qua, insomma, fa il commentatore del Pescara sulle televisioni private. Sì, però locali. Mi pare fissato con una cosa, ma in particolare, perché ricorre spesso. Ma no, assolutamente no. No. Ma oltre Meloni contro Cecchi Paone, c'è anche Giordano contro Cecchi Paone. Ormai Cecchi Paone ha preso il ruolo in questo grande cabaret, in, questo, sì. In questa grande rappresentazione teatrale che sono sia Quinta Colonna che Dalla Vostra Parte, oltre che naturalmente la splendida parodia di Crozza, ha preso il posto praticamente di Librandi Cecchi Paone, sì, mi sembra, sostanzialmente, no? Giordano Cecchi Paone. Quei giovani saranno gli unici italiani che lavoreranno, mentre quelli che ancora sperano nella sovranità fascista e contro il capitalismo non avranno nulla da fare. Non avranno nulla da fare. Non avranno nulla da fare. Studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia, studia. Questo era Giordano ormai praticamente preso dalla morza, sì, capito? Della, totalmente della battaglia, indemoniato della da Quinta Colonna. Studia, studia, studia, studia. Ti sei laureato all'Isola dei Famosi, dice Cecchi Paone. Voglio leggere Andreatta, ignorante che sei. Voglio leggere Andreatta, che non era neanche della mia parte. Era un democristiano. Pensa di uscire dall'euro, siete rovinati senza euro. Tutti economisti, è una follia. Siete rovinati dell'euro. Giordano Cecchi Paone. Poi a un certo punto, per alleggerire la trasmissione, interviene Sgarbi. Pesce cani, il nuovo libro di Mario Giordano. Pesce cani. Ma che c'è? Quello era quello vecchio. È quello vecchio. Questo è Vampiri, quello di... Vampiri. Ah, scusami, è vero, sono rimasto. No, no, dove va? Vampiri! She was in rage. Studia, studia, studia, studia. Sgarbi, l'euro te lo mettono nel culo. Questo ovviamente anche a Cecchi Paone. Ah, sono Sgarbi. D'accordo. D'accordo. Mi sembra che sia. Quando tu hai una enorme potere economico e finanziario che si frappone al dollaro, tu con la liretta oggi non vai da nessuna parte. Ti vai con l'euro che te lo mettono pure nel culo. No, è vero, è fortissimo. E poi un must di Sgarbi, 3.000 euro, 3.000 lire per un'acqua, sì, minerale. Questo lo dice sempre. Sì, sempre, sempre, sempre. Se non puoi tornare alla lira, fare vigilare l'euro dalla lira. Cioè tu vai lì e dici, scusi ghiacciolo, 6.000 lire, non lo compra più nessuno, devono abbassare il prezzo. Acqua minerale, 3.000 lire, ma vaffanculo, non la compro. Cioè ti trattieni. Elemosina, 4.000 lire, ma va, muori ammazzato tu, mendicante. Quindi... Soltanto uno stato di criminali davanti a questo dato potrebbe continuare a rimanere in Europa e a non restituire ai cittadini il mal tolto. Cioè, siamo governati a delle teste di cazzo. Va bene ragazzi, dove andiamo? Andiamo Maurizio dalla provincia di Genova, vai Maurizio, vai. Buonasera parenti, buonasera a tutti. Non dico buonasera perché sono come te, sta a sentire. Io sono Maurizio, il macellaio che aveva chiamato tempo fa. Non mi ricordo, non mi ricordo Maurizio. Non ti ricordi, un attimo fa contro i pedofili. Ora vorrei aggiungere anche chi ha coltella violente e ammazza le donne. Io ho sempre detto che la gente che tocca i bambini, sì, le donne, le persone indifese vanno cremate sull'istante. Ma che vuol dire cremate sull'istante? Cremate, cioè eliminate, perché tu non puoi approfittare di un bambino. Ma lascia perdere i bambini, adesso che c'entra, quello è normale che tu... Le donne oggi hanno di nuovo uno ha coltellato la moglie e ha inseguito... Certo. La contella. Quello lì gli fanno il processo. Quella signora lì, molto probabilmente, non se vivrà menomata, vivrà disabile, hanno detto le ultime notizie. Quello lì gli fanno il processo. Quello lì va tolto dal problema, va tolto dal pensiero. Ho capito, Maurizio, ma tu vuoi la cosa tolto dal pensiero negativo? Che cazzo vuol dire? Cioè, tu dici che tutti quelli che commettono un delitto vanno uccisi? No, ascolta, no, quello stai dicendo, scusami. Allora. Noi abbiamo ancora, stiamo mantenendo ancora un signore che si chiama Liorni, a Perugia 22 anni fa. Io sono, faccio parte della Don Fortunato di Noto, del prete antipedofilia. Cioè, tu dici manteniamo dei pedofili. Manteniamo dei pedofili in carcere. Noi, se vi ho capito, ma allora dobbiamo eliminare metà della popolazione carceraria, che ne so, un terzo della, cioè gli assassini vanno uccisi, secondo te? Bravo, vanno tolti dalla possibilità. Ma ho capito, cioè tu dici chi ammazza deve subire la pena di morte, punto e basta. Molto semplice, quello dici. Sì. Quello lì, no, io ho detto chi ammazza, perché chi ammazza le donne? Ma che vuol dire? Chi ammazza le donne e la pena di morte, gli altri allora che vuol dire? No, non ho detto chi se ne approfitta di un bambino. Vabbè, ma quello l'hai già detto. Ricordi, le donne hai aggiunto oggi, le donne, Maurizio, sei un po' confuso, No, non sono confuso, perché io avevo detto. Ma non sa, tu vuoi la pena di morte, non sai un cazzo. No, come non so un cazzo, parente? Ascolta qua, io ho detto. No, questo è cruciale. I pedofili me li portano a me, siccome io sono 1,92 m, peso 112 kg, faccio il macellaio. E che fai? Che me li portino tutti davanti a me, senza armi, che li sistemo io. Cioè, tu dici, io nella mia macelleria, portatemi i pedofili, bravo, chiudete, chiudete tutto e io li ammazzo, li metto in condizioni di non fare più danni ai bambini. Cioè, tagli l'uccello, cioè, mettetemi l'uccello del pedofilo sul banco. Ma come bravo? Così c'è bravo? Io non ho detto bravo, lui, ma bravo no. Bravo niente, ma che bravo. Pronto? Dica Parenzo, dica. No, Cruciani. No, io sono totalmente Cruciani. Contrario a queste follie che state dicendo, quindi figuriamoci. Io guardi che sono una persona molto buona, io faccio aiuto. Ma non mi pare, francamente, non mi pare però. Ma no, ma perché dovete dire di no? Perché dovete dire di no? Ma scusi, vuoi prendere a fettine uno? Cioè, stai dicendo che vanno ammazzati, vanno cremate le persone che ammazzano le donne, poi non si capisce perché quelli. Ma anche le donne hai detto oggi. Ho aggiunto le donne oggi perché è un po' di tempo che ci sono tutti i giorni i femminicidi. Vabbè, ma tu sei disturbato, scusami, te lo posso dire che sei disturbato? Cioè, chiami. Un pochettino. Beh, se lo ammetti, sei disturbato? Ma ora dimmi perché. Che disturbo hai? Nessuno. Io sono. Ma hai detto un pochettino, reale. Hai detto. Ma reale di che? Sei un coglione. Ma perché mi devi dire così? Io non te l'ho detto quelle parole lì. Para a parlare d'educazione. Ma che c'entra? Ma mi sembri un coglione. Prima dici io i bambini, i pedofili li ammazzerei tutti. Poi dice faccio il macellaio, ammazzerei pure tutte le donne. E i pedofili, datemi i pedofili, li taglio l'uccello. I pedofili, li taglio l'uccello perché faccio il macellaio. So dove tagliarglielo. Ma cosa stai dicendo? No, d'accordo, ma mi sembri un po' confuso in tutto. Poi vanno cremati chi va cremato. Quelli per esempio di Alatri, adesso che faresti tu? Scusa, non ho capito. Quelli di Alatri che hanno massacrato quel ragazzo, che faresti? Un processo giusto. Perché quello che ammazza le donne, che differenza fa? Scusa. È diverso. Luigi da Caserta, dai. Pronto? Sì, dimmi Luigi, dimmi. Sì, ciao Peppe. Volevo riferirmi alla trasmissione che è stata chiusa, quella della Perego. Ancora, che c'è da dire? Sì. E volevo solo dire questo, che la nostra presidentessa Boldrina forse dovrebbe ricordarsi dell'orgoglio che hanno le donne anche quando ci troviamo dopo una separazione a dover risarcire la donna che è stata con noi per il solo fatto che è donna. Quindi è questo. Ma perché c'entra questo? Lui sta dicendo probabilmente un padre separato eccetera, perché gli dava bene. Lui dice sono sbagliate le leggi che favoriscono le donne durante il divorzio. Ma quello che c'entra, non c'entra niente, però, che c'entra con quello che ha detto la Boldrini? Scusi, che c'entra? No, la Boldrini parla di sfruttamento sessista. E io tu dici sono gli uomini che subiscono, sono gli uomini spesso che subiscono la tirannia delle donne durante la separazione. Guarda, Beppe, ti dico una cosa, che io oggi vivo con una donna dell'est. Non voglio entrare nell'argomento se sono migliori o peggiori, perché sarei di parte. La cosa che dico è che la mia attuale compagna non aveva figli, si è separata col marito, ognuno per la sua strada. Vabbè, probabilmente aveva una situazione economica che se lo poteva permettere. Però tu dici sei vessato dalla tua ex moglie, giusto? Ma assolutamente, io al paese mio Quanti soldi ti ha tolto? Ho mazziato, ho pigliato mia moglie con un altro nel letto di casa. Pure. Figlia 550 euro al mese. Cose sui giornali. Ma non ho capito, l'hai pizzicata che stava a scopare con altro? L'ho pizzicata che stava a scopare con altro. Sono rientrato prima a casa, io vado a lavorare. Ma dai, sono tornato te. Ma è vero, una tragedia. Amico mio, però no, ma spiegami la scena. Ma scusa, se telefoni alla Zanzara e non torni a casa, spiegami la scena. Non ti preoccupare, fammi spiegare la scena. Dai. Allora, vado a lavorare, finisco prima di lavorare, torno a casa. Sì. Torno a casa, apro la porta normale e trovo questa scopa con altro. Ma amico mio, io mi sarei, buttato dentro. Ma io mi sarei buttato dentro pesce! Io mi sarei buttato dentro pesce, amico mio! Sì, te voglio vedere, Peppe, te voglio vedere. Scusa, quando non ho capito. Moglie tua, quella è la. Allora, tu mi stai raccontando una cosa. Allora, tu sei rientrato a casa. Adesso ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando una persona che è molto interessata a questi argomenti. Allora, Tommaso da Chieti dice: io sono tornato a casa. Ma voglio capire. Sei arrivato lì, cosa hai visto? Una macchina strana fuori? E tu, amore, raccontami la scena. Io proprio sono arrivato là, ho aperto la porta convinto che mia moglie stesse dormendo. E che sentivi? Perché non avevamo figli. E ti dico, voglio dire, non entro nel merito del resto. Entro in casa, entro in camera da letto e trovo questi due che stavano a scopare come matti. E che hanno detto loro? Letto mio. Io vabbè, lascia stare il letto tuo, questo è un dettaglio. No, questo è importante. Dettaglio, io l'ho sputato in faccia, ma l'ho detto, scusa, ma... Gli hai sputato in faccia. E lui che ha detto lui? Che cazzo gli dovevo fare? Ma lui che c'entra? Ma te dovevi buttarla dentro, amico mio! Dai, Ma dovevi stare, lui che ha detto? Due donne, ma no, io con... Ma quello che stava con tua moglie, che ha detto? Ma vedi che ipocrisia, però. Vedi che ipocrisia, con altre due donne sì. Con altre due donne sì, però con un uomo no, no. Io adesso ti presento un grande abruzzese, il quale in una situazione del genere avrebbe fatto una mossa molto semplice. Uno si sarebbe messo magari a guardare, un grande abruzzese con la maiuscola, l'abruzzese. Sì. Un grande abruzzese, aiuto. Il quale si sarebbe messo a guardare oppure a partecipare attivamente. Certo, non fai la caciara che hai fatto tu, separazione, sordi da dare. Guarda, ma voi siete arretrati. È la cosa paradossale. Ah, l'hai mandata pure via, Guarda, Peppe, ti dico la sincera verità. Te parlo col cuore, l'ho mandata via convinto che questa fosse venuta a mena quelle che sono gli obblighi di un matrimonio. Oh, mamma mia, detto, gli obblighi del matrimonio! Ma è roba vecchia! Dai, vabbè, fatti dare un consiglio dal grande abruzzese che abbiamo qui in collegamento, signor Siffredi. Buonasera, signor Siffredi. Grande. Allora, caro Rocco, ciao Rocco. Allora, ciao. Che cosa avresti fatto? Qui c'è un tuo professore. Conterraneo, il signor Tommaso da Chieti, il quale si è trovato di fronte a questa scena. Ora tu, è vero che sei una persona libera, sicuramente non sei come Tommaso. Che cosa avresti fatto? Uno, cacciata di casa come ha fatto il signor Tommaso da Chieti. Due, dunque escludiamo questo. Seconda cosa, buttato in mezzo e partecipato. Esatto, escludiamo la prima. Ti saresti buttato in mezzo per partecipare. Terza cosa, guardare, che pure non è male ogni tanto guardare. Sicuramente guardare, sì? Per cercare di capire se tutto quello che sta facendo mia moglie con me non lo faceva. Prima cosa, questo è buono. Sì. Per imparare, casomai per imparare. Sì, per capire magari se c'è qualcosa che io non gli davo, che non avevo capito, di cui lei aveva bisogno, quindi certo. Questa è la fase, capire prima il perché succede una cosa. Sì. Dopodiché, se la cosa mi arrapava, mi buttavo pure io, se no prendevo una telecamera e mi facevo un non movie di quelli top. Beh, diciamo che sono dei bei consigli, Tommaso, sono degli ottimi consigli, escluso la cosa che hai fatto tu, che è la cosa diciamo più borghese che si può fare. Cioè, la cosa più borghese. No, hai detto bene tu, roba vecchia. Ma che è questa cosa? Ma sì, ma uno entra, guarda questa scena anche favolosa, se vuoi. Cioè, la moglie ormai non succede più, perché ormai con i telefoni. È molto arrapante. Esatto, molto arrapante. Entri là, detto Tommaso, scusa, stai parlando con grande abruzzese, tuo conterraneo, che insomma è uno degli abruzzesi più famosi, non in Italia, nel mondo. Allora, dico, Tommaso, hai visto? Hai fatto la cazzata. Perché se tu stavi lì, imparavi un po', dice questo qua se la scopa, magari se la scopa bene, io non ci riesco, e dunque già imparavi qualcosa. Prima cosa. Secondo, e dunque potevi rimediare ai danni che il tuo matrimonio ha provocato nella vostra relazione. È opzione numero due del signor Siffredi. Beh, ti metti lì, amico mio, e cominci a girare un bel filmino, e dopo magari ne godete insieme a tua moglie. Parenzo non è di questa partita, io lo so. No, Tommaso, rispondi un attimo all'abruzzese. Decisamente no. Tommaso, oh, che fine ha fatto? Se n'è andato? Si è impiccato. Sei impiccato? Vabbè, ha sentito ciao, questo ciao, racconto. Allora, come avete sentito, in collegamento con noi Rocco Siffredi. Rocco, eccoci grande. Qui. Come andiamo, Rocco? Allora, come andiamo? Bene, ho saputo che ti alleni. Ultimamente mi alleno ascoltando Zanzara. Lo so, Zanzara a distance. Lo so, amico mio, ho visto un video che hai pubblicato con scritto pure mentre ti allenavi lì in palestra sentendo la Zanzara. Beh, grande ritmo, per cui ti carica, onore, ti carica, ti carica. Sì, noi siamo molto onorati di questo. È un onore. Allora, grazie. Ti dico una cosa: meglio essere ascoltati da signor Siffredi che essere ascoltati, che ne so, faccio un nome a caso, che essere ascoltati dal Presidente del Consiglio. Cioè, se mi dicessero ti sente Siffredi, dico cazzo, sono orgoglioso. Due, se ti dicono mi sente Gentiloni. Tra un po' però che ascolterò mentre giro. Mentre giri, sì, perché ho letto da qualche parte che alla D'Urso hai detto che praticamente stai per ricominciare o hai già iniziato. Beh, tu sei stato l'unico a dirmi due anni fa, non ci credo, me lo ricordo tal quale. Sì, come tu no, hai certo. capito che è molto complicato. Allo stesso tempo sai benissimo che funziona così, sai benissimo che non è facile per me cambiare la mia natura, è molto complicato, molto. E dunque non ho capito, hai deciso di ricominciare a girare film porno, cioè da protagonista, cioè ho da attore? Ho già ricominciato da novembre ho già ricominciato e ti dico la verità, poi in realtà con mia moglie, in realtà io l'ho detto sull'isola, so alla base che sull'isola ho avuto uno sconvolgimento totale della mia esistenza che era legata ai figli, alla moglie, alla famiglia, tante cose, credo che era la cosa da fare. Sì. Poi mi sono reso conto che quando sono uscito mia moglie mi ha detto: Rocco, ma sei sicuro? Perché conoscendoti, io una donna estremamente intelligente, perché le certe cose sì. che io amo fare, sì. io non amo farle. Sì. Tipo che cosa che non ama tua moglie? Tante cose. Ecco, mia moglie è veramente innamorata di un uomo. Cioè l'anal, che ne so, l'anal non le piace. Con mia moglie ho cercato di fare anche delle cose con più persone, io sono molto molto generoso, io ho voluto anche creare delle situazioni. Ma non le piace? Non gli piace. Allora, legato a tutto ciò, lei rispetta la mia sessualità, e mi ha detto: Rocco, vivile nel tuo mondo, vivile nella... dal set no. Sì, bravo. Allora, ho capito una cosa. Dunque, con tua moglie, lei non ama alcune cose che ti piace fare, vabbè, cioè le varie cose del sesso che si possono fare. Io sono molto aperto e sono una persona che è molto curiosa e lo è sempre e lo sarà sempre. Non è una questione di età, vecchio o non vecchio. È vero che a 20 anni, vedersi a 50 anni ancora con una telecamera mi faceva cagare, ti avrei detto: ma che cazzo sta a fare questo? Però. Oggi trovandomi là non è che perché ho la possibilità di farlo lo faccio, è proprio che ho una necessità da due punti, il primo fisico, mentale, reale, io non mi punturo il cazzo, tu lo sai, sono una persona che riesce a fare sesso ovunque, dovunque e con chiunque, ancora oggi. Cioè non prendi nulla? No, niente. Né punturine, Che punturino. Infatti io avevo deciso di non utilizzare attori che si fanno tutte queste cose qua perché hanno una mancanza di passione, di realtà, con gli additivi quando di qualsiasi tipo. Questa roba qua, niente, non c'è faccia, non c'è espressione, non c'è volo. A me le donne mi piace mangiarmene, è reale. A me la donna mi piace assaporarla, leccarla. Parli di tutto, cioè, vabbè, abbiamo capito adesso. Il sesso è veramente qualcosa di veramente importante. O lo fai così, o io non ne parlo. Preferisco stare in campagna con gli animali, curare gli animali, curare la merda al culo dei cavalli. Per cui prima cosa c'è una questione appunto di quasi di esigenza, di esigenza reale. Fisica reale. E poi tu sai che io sono sempre sincero con te. Ho una necessità dall'altro lato di uomini, cioè io sui set non trovo, te lo giuro sui miei figli, attori che mi piacciono, che mi soddisfano, sono tutte delle macchinette, tutti finti. Allora, o butto tutto, lascio perdere il porno, ti ritiro, chiudo, oppure ancora ci sono io dentro e sono buttato sull'Accademia, ma non ne voglio parlare, se no sembra che voglio fare pubblicità. No, però ho capito che dici tu. Da una parte c'è una necessità fisica, dall'altra diciamo non trovo uomini, attori porni porno all'altezza. Sono abituato troppo, troppo, troppo bene con quello che faccio io. Mia moglie mi ha sempre detto una parola: smettila di cercare te stesso negli altri, perché se no sarei sempre infelice. Purtroppo ho ragione. Ma tu riesci a scopare tua moglie come scopi una nel set, oppure sul set, oppure è una cosa completamente... Allora, ti dico la sincera verità. No. Sì, per il semplice motivo che conosco mia moglie, so esattamente cosa gli piace, a me piace molto fare l'amore con lei, facciamo le cose che piacciono soprattutto a lei. Ecco, benissimo, fermi tutti, riprendiamo da qua. Cosa piace fare alla moglie, ecco, del signor Seffredi? No, perché il discorso si incrocia. Abbiamo saputo due cose fondamentali: ha ricominciato i film porno da novembre, ma per un motivo molto particolare, per necessità fisiche, non riesce a farne a meno, e due, perché non trova persona alla sua altezza. Fermi tutti. Ehi, il top assoluto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao, ciao. La Zanzara. Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa credere che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole la nerchie, non la barba, ci vuole la nerchie, che le barbe, quale virilità? È una chiusura. Alla fine la prova della verità è sempre la nerchie. Sì, ma riportando... Se volete capire, tagliate queste barbe, non potete fare manca una scarpetta, lo piatto che vi pozzo tutte queste pile. Come facete? Puzzate, fatevi le barbe, cercate di essere ragazzi giovani, anziani, puliti, belle. Ma non che è la virilità, quale virilità? Alla fine senza alza la nerchie non c'è. Rocco, lo sai chi è questo genio? Sì, lo sai chi è? Mi sembra Raggi, no? No, Semproni, no. Semproni, non lo conosci, amico mio, tu stai in Ungheria, stai. No, però aspetta un attimo, perché caro Rocco. Mie, Pescara, sì, è pescarese. Caro Rocco, mi scrive il signor Robert Cannuna, mi dice, ma scusami, non era Nago Vidal il successore del signor Siffredi? Nacho Vidal sì. È un mio allievo, così come è stato Manuel Ferrara. Sono gli unici due che si possono chiamare i miei successori al 100%. Ecco, però ti devi dire al signore che Nacho Vidal, che si producono 3000 film porno l'anno solo negli Stati Uniti, e che il signor Nacho Vidal c'è solo un uccello, non può stare dappertutto. È un problema quello. Purtroppo ci sono pochissimi attori art. Nacho è uno di questi. E comunque gli unici che puoi riconoscere lontanamente ancora come tuoi successori, anche se mai detto che non hai trovato l'altezza, sono Nacho Vidal, cioè dopo Rocco chi c'è che più o meno si avvicina? Nacho Vidal e poi l'altro chi era? Manuel Ferrara, sono due ragazzi francesi, sono due ragazzi che io ho scoperto, e devo dire c'è un italiano, che purtroppo ha smesso, che si chiama Omar Galanti. Ah, come no, mitico Omar Galanti, come no, mitico Omar Galanti. Sì, lui devo dire che è uno, grande passione, grande voglia. Ma ha smesso? Ha smesso? Ha smesso, purtroppo si è ammalato. Ma Omar Galanti è uno che, adesso non voglio dire niente, ma quasi ce l'ha più grosso del tuo, scusa se utilizzo queste... Cioè, una roba pazzesca. Guarda, li abbiamo avuti tutti e due molto vicini per tante volte, e sono sicuro che c'è un bel versione. Non so se è più grosso. Ma no, ma signor Galanti, signor Parenzo, dovrebbe essere un tuo modello. Come signor si Omar Galanti, amico non mio. Non l'ho mai guarda sentito. Che io è roba ma serissima. Io conoscevo bene Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Manfredi. Questo Galanti adesso lo googlo un attimo per vedere se ho visto mai qualche sua opera. Galanti, secondo me, secondo me tu fai sempre finta, ma tu sei un gran cultore. Sì, guarda, assolutamente. Voglio, caro Rocco, come si chiama questo Galanti? Omar Galanti, ma ha smesso. Omar Galanti. No, io conoscevo Omar Monastier, che è stato il direttore del Mattino di Padova. Ma cosa c'entra? Però non so se sia Omar Galanti. Senti, senti una cosa, Rocco. L'anagrafe Vittorio Paggio, non ho mai sentito questo signore. Senti una cosa, Rocco, ma hai detto prima che cos'è che a tua moglie non piace fare che a te invece piace fare? C'è una caratteristica, tanto per farci capire, a parte l'amore di gruppo, mi sembra, no? Cioè, con quello che va molto di moda adesso e che è diventato, come dice la signora, patron. Sì. Il sesso anale, cioè con normale, quindi il sesso anale, ad esempio, è una pratica che mia moglie purtroppo non ama. Ci ho provato in tutti i sensi. Cioè, non l'hai mai fatto con tua moglie? Mai fatto con tua moglie? Mai. Ma una roba pazzesca. Devo dirti di più. Non per questo non la rispetto, non per questo troviamo altre strade, non per questo, però mia moglie sa che sono estremamente, a me quando tiro fuori il pennello parlando di pittura piace schizzare ovunque e da tutti i lati. Hai capito? Linguaggio metaforico. Mi manca proprio la voglia di creare, ma credimi, adesso ti dico un'altra cosa che nessuno sa. Sì, non con le donne che mi scrivono, voglio scopare, voglio fare sesso con te. Davanti alla telecamera, non che io sia diventato esibizionista, però farlo lì e sapere di dare piacere a migliaia, si presume, di donne e anche di uomini, mi piace di più, mi fa sentire più figo, perché poi alla fine di un escenario sono morto perché non ho più quel fisico, sì, ma mentalmente ho una voglia terribile. Poi purtroppo la sera non dormo, ho dolori dappertutto. Ma veramente, però, veramente, cioè da quando hai ripreso, giuro, da quando hai ripreso non riesci a dormi male, hai dolori ovunque, beh, normale, a 50 anni. Io quando faccio un escenario, perché? Perché le mie scene durano ancora 4-5 ore, ancora mi butto sul marmo, sui scalini con la schiena, ancora uso la testa come un ventenne, il fisico non segue più. Le scene hard sono molto lunghe, le donne odiano girare con me, le attrici odiano girare con me perché dicono che vado sempre troppo lungo, però... Cioè, nel senso che odiano girare con te perché dicono che vogliono per il nome, perché ogni volta io ogni anno vinco il miglior attore a Las Vegas, le migliori scene di sesso, quindi adorano la stima di avere il premio. Però poi sanno che per avere il premio devono passare tante ore. Devono lavorare come matti. Senti, ma questa polemica. Mi piace questo. C'è cioè la passione, sei appassionato, dai, sei appassionato del tuo lavoro, questo è il punto fondamentale. Sì. E dunque, dei dettagli di ogni cosa. Io l'altro giorno abbiamo avuto in collegamento il signor, come si chiama il regista? Il signor Salieri, che è un grandissimo. È un grande. E io lo paragono a lei. Ha lavorato anche con Mozart. Salieri è stato. Salieri è uno dei più grandi artisti italiani, ragazzi, oltre Salieri. 60 anni. Ogni tanto nei suoi film non si scopa per 20 minuti per mezz'ora, è quello il bello. Cioè, devo dire che tra me e Salieri, io sono stato il primo attore a fare il primo film con Salieri, portato da Gabriel Pontello a Napoli. Sì. Era un film sulla camorra, perché lui ama molto l'ambiente napoletano. Abbiamo fatto la Contessa Ligata, tutta questa roba qui. Molto bravo. Sì. Però devo dire che è estremamente old style. Lui è una persona che quando ti metti a sedere a tavola devi aspettare prima di mangiare che il maestro si chieda. Sì. È una persona che tiene molto tutte queste cose qui. Però tanto di cappello, tanto sta libero di trombare. Sì, perché? Cioè. Perché purtroppo io non ho potuto più girare con lui, perché a me piace il sesso vero e lui mi piace estremamente condurre, è come un direttore d'orchestra, ti dà i battiti che tu devi usare. Sì, ho capito, non è molto spontaneo, dici, non ti lascia fare spontaneamente. No, però allora, grandi botta e risposta finale con Rocco Siffredi. Andiamo alla questione fondamentale di questi giorni, Parenzo, cioè la difesa personale. Rocco, tu sei armato dentro casa tua. Beh, se entra qualcuno, che fai? Ho un pistolone che mi porto dietro sempre, bene, non ho bisogno di porto d'arte. Vedi, immaginavo che... te l'ho servita su un piatto d'argento, però in realtà, oltre a quello, spareresti a un ladro impropria che lei ha lì. Allora, io devo dire che sono stato sempre una persona estremamente fortunata, mi tocco i coglioni, tanto per rimanere sempre in quell'ambiente. Ho avuto un sogno terribile che mi ha ripercorso per almeno decenni, di tornare a casa e trovare mia moglie violentata, uccisa, e i bambini ammazzati. Questa cosa qua dunque spareresti, hai delle armi o no in casa? No, però voglio dire, questi sogni terribili in cui mi svegliavo con questi nightmare, l'ho avuto per tanti anni. Ho voluto comprarmi un'arma. Ho una donna dentro casa che ha molto più cervello di me e mi ha detto: tu l'arma non la compri perché tu sei matto e se entrano dentro casa ci metti nei guai a tutti quanti. Vedi che come donna, mi sono reso conto che mia moglie mi conosce molto bene, ho detto: va bene, non voglio fare le infelice, non l'ho comprata l'arma. Però devo dirti che ho subito quattro ragazzi dentro casa, sono uscito con due coltelli in mano, li ho seguiti e mi sono detto: per fortuna che non ci siamo incontrati, perché mi avrebbero ammazzato sicuro, perché con due coltelli dove vai? Ho capito, senti, mi hanno rubato la macchina, sono entrati dentro casa, però voglio dire, l'unica volta sentirsi impotenti è una cosa bruttissima, perché poi tu li capisci quelli che sparano, che reagiscono sparando e ammazzano. Io li capisco molto bene, perché io farei la stessa cosa, ma ti dico, amo mia moglie, amo la mia famiglia e so di essere mezzo matto da quel punto di vista, e ho preferito seguire non armarti. Senti una cosa, la vicenda della pergola, l'hai seguita questa sulle donne dell'est? Tu sei sposato con una donna dell'est da tanto tempo, non trovi ridicola questa roba qua siamo caduti veramente in basso, e questo è che l'Italia che mi fa schifo di più, questa cosa qui, questo perbenismo finto, poi capito, poi ecco qui ma voglio dire, ma che senso ha? C'è cioè, la Boldrini che interviene, la Boldrini che interviene. La Boldrini, dimmi, dimmi. Altre cose per lei. Cioè, no, che hai per la Boldrini? Non andrei oltre. No, ecco, cioè, però... le faresti... andiamo oltre. No, andiamo per oltre. Per le altre cose per cui dovrebbe dedicare a cose un po' più serie. Ma sarebbe perfetta per fare con la sua aria così da professorina, sarebbe perfetta per un film porno? Deep throat. No! Una marea di deep throat che vanno di moda adesso. Non ho capito cos'è questo. Con la saliva, con tutta la saliva che gli si saliva la faccia. Non ho capito la tecnica di che si cosa si parla. Chiama una cosa sessuale, non c'è nessuna cosa di forza, di violenza. Lui dice che per il tipo di così. Allora, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo detto di tutti i politici italiani. Ci sono delle persone, man, che hanno bisogno veramente di trovare e sì. di capire che attraverso il sesso ci si libera di tante tippe mentali. Bisogna rompere quel meccanismo là, inizia a divertirsi e la smette di rompere i coglioni. Voglio dire, la povera Perego, mi sembra assurdo. Sì, assurdo. E d'altra parte non ti voglio manco far entrare nella discussione sulle donne dell'est, no? Perché tanto no, sono generalizzazioni quelle là, donne... sono generalizzazioni quelle che hai letto là, è un gioco, un divertissimano, oppure c'è qualcosa di vero in quella lista che è stata fatta? Una piccolissima cosa vera è che le donne dell'est sono molto più libere delle donne, diciamo, dell'ovest, semplicemente perché il sesso è l'unica cosa che non gli potevano togliere. Durante il comunismo gli hanno tolto tutto, almeno li facevano scopare, tutto lì. È sono più libere sessualmente, dici? Sono più libere sessualmente. Sono più libere, basta, il resto sono uguali, sono le paracule di là, le paracule di qua. Certo. Quelle che approfittano di là. Ma è vero che perdonano di più il tradimento, è vero o no? Ma no. Sicuramente sì, perché sono più libere sessualmente, sono più libere sessualmente, un po' di più, ma non totalmente di più, perché io ho incontrato delle ragazze qua in Ungheria estremamente toste, che sono venute sul set a dare delle brandellate in testa al fidanzato, perché si è messo a scopare porno star, tra virgolette, scopavano altre porno star sotto la doccia, alla fine della scena hanno fatto dei casini surreali. Per cui... voglio dire, l'ignoranza è ovunque. È ovunque, quindi... non c'è dubbio. Senti, ma cosa hanno i trans più delle donne oggi da attirare gli uomini? Perché c'è un... cioè, cosa hanno di più? Però perché oggi tu per esempio non sei attratto particolarmente, mi sembra, dal mondo trans? A me mi piacciono i trans. Ti piacciono? I trans pure. Perché sono molto trasgressivi. Però a me piace il trans. Io ho sempre cercato il trans, ho incontrato al Bois de Boulogne quando avevo 18 anni, che lavoravo come cameriere, e quando mi fermavo per farmi fare la solita pompa della sera a mezzanotte, classica. Avevo 20 franchi, una volta ho incontrato questa biondina con la pelliccia che andava a destra e a sinistra, non era la classica prostituta, mi fece un pompino come fa la tua fidanzata, senza andare di corsa, stupendo. Sono rimasto allucinato. Ed era un travestito, era un travestito. Da allora ho sempre questa curiosità di ricercare quella persona lì, ma in realtà diciamo che la perfezione del trans è legata a vari aspetti, cioè chi lo fa per avere quel brivido in più, sapere che stai andando con una donna che poi è un uomo in realtà. Cioè, ma non sei gay se vai con un trans, no? Assolutamente no. Cioè, manco se ti sbatti per terra, perché a me piace la patata molto di più per del cui... trans, tra virgolette. Sì. No, assolutamente no. E poi a me i trans mi piacciono da morire nel contesto uomo-donna, trans. Infatti ho fatto 3 film, non come attore, come regista. Queste dichiarazioni stanno facendo tremare la borsa di Hong Kong. All'interno della coppia, è molto divertente. I miei film non sono andati, ti dico perché. Sì. Secondo me perché ero troppo avanti, perché c'erano troppe patatine in mezzo. Loro invece i film dei trans vogliono il trans e l'uovo. Capito, Parenzo? È un format. Andresti mai... vedi solo un senso, certo, un ma andresti mai in Parlamento, Rocco? Io ci potrei andare, ma sarei molto non molto garbato, perché a me non piacciono i compromessi e non mi piacciono Ma qualcuno te l'ha offerto qualche volta la candidatura? Perché io ti ci vedrei bene nel prossimo Parlamento. Fra meno di un anno si vota, non è che ci fai una sorpresina, ragazzi. Andiamoci insieme, Ben. Mamma mia, stupendo. Io avrei già il nome della lista. No, no, non c'è, non c'è lista. C'è, senti, la lista, si freddi, si chiama Orban, mosso cazzi, ultima, si chiama la lista. Ultima cosa, Orban, da 1 a 10, quanto lo approvi il signor Orban in Ungheria? Da 1 a 10? Ho paura. Hai paura di Orban? Perché io, allora ti dico la verità, io sono nato per la libertà, ho lottato per la libertà, ho scelto il porno per la libertà. E le persone che ci tolgono la libertà che abbiamo acquisito in tutti questi anni mi fanno paura. Dunque, hai paura di Orban? Il sesso anale è dopo. Ho paura perché lui si sta comprando al 70% del Parlamento, sta facendo come Putin, si sta comprando tutto e tutti. E se questo decide di venire a casa tua e di darti un calcio nei coglioni e dirti va per strada, lo fa nel 70%. Cioè, hai paura che l'Ungheria da posto molto libero diventi un inferno. Va bene. Senti, già lo sta diventando. Un'ultima cosa, la professoressa, sì, De Mari, anzi no, questo chi se ne frega sul sesso anale, tanto so benissimo che non lo consideri doloroso, pare, no? Abbiamo già parlato diffusamente, sentito, ma secondo me una che dovrebbe, ecco, come la Boldrini, praticare un po' di sesso anale, vedrà. Vabbè, che adesso questo però, non mi pare il caso, ragione, ecco. Ha totalmente ragione La Paltrow. Tu devi sapere che la maggior parte delle porno star oggi, sì, vengono solo quando le incuri, per il semplice motivo, sì, che questo linguaggio immaginifico da sociologo, si ha l'orgasmo garantito, sì, ma lo si acquisisce se c'è una vera pratica, se c'è una vera ricerca, come ha detto la Paltrow. Bisogna farlo con un po' di dolore, sì, perché non c'è piacere se non c'è dolore, viene apprezzato ancora di più. Beh, stupendo. Un'ultimissima cosa, fondamentale questo, ultimissima cosa, l'aumento di capitale. Ultimissima cosa, darò così freddi, collegamento speciale con Budapest oggi, è questo. So che Rocco sponsorizza un suo, io chiuderei così, facendo sentire quest'audio di Rocco. Sentiamo, ce l'abbiamo. Sì. Come si chiama sto candidato tuo? Donato Ramuto, nonché il mio più grande amico d'infanzia, che oggi lui, io ho scelto di fare il pornostar e lui il becchino, ed è veramente il mio più grande, cioè, amico. Un becchino, compagno d'infanzia, sì, di Rocco Siffredi, candidato ad Ortona al consiglio, sì, comunale. Beh, diventerà il candidato della Zanzara. Con, ragazzi, quale lista è candidato? diventerà sindaco. Votatemi questo qua. Come cazzo si chiama questo di nuovo? Donato Dunet. Ma con quale lista è candidato? Non è Donato come, non è però dotato come te, signor Donato, non mi sembra dotato ma come... non lo so perché all'epoca sono di me che avevamo tutti i cazzi piccoli, quindi non lo so, io un po' più grande, no? Sempre precisa, ragazzi, ciao Rocco, a presto, ciao professore, arrivederci. No. Ragazzi, allora, anzi no, senza ragazzi, Donato, ve l'ho detto, è un compagno me, è una persona che io conosco benissimo da bambini, sempre onesto, pensate buono, ma detta la chiesa a sé, facevamo assurdatina e cacciava la mamma per mettermi dentro la chiesa. Immaginate quanto è bravo Donato, mi ha fatto vivere un'infanzia bellissima. La Zanzara. Le donne che vanno con Cruciani sono affette da parafilia, quelle che vanno con Parenzo da masochismo. Tutti a sbavare per queste donne dell'est, di qua, di là, dell'est Europa. Non avete capito un cazzo fino a che non avete provato le asiatiche. Le asiatiche, quelle sì, le cinesi, le giapponesi, coreane, taiwanesi. Lì siamo veramente, veramente al top. E lì la foresta non viene rasata. Allora, ragazzi, parliamo di nuovo di un signore che si chiama Bartolomeo Pepe Parenzo, che è un senatore ex Movimento 5 Stelle, certo. il quale, incredibile, vai a guardare, ti prego, sul suo sito, perché ti metti veramente a ridere, sul sito Facebook, praticamente mette un cerchio giallo intorno a un elicottero, a un simbolo che è presente sopra un elicottero che ha prestato soccorso durante l'attentato di Londra. Eccolo qua, questo, questo simbolo è un simbolo massonico, un simbolo della massoneria, no? Secondo lui, il fatto che questo elicottero, abbia questo simbolo della massoneria, questo simbolo della massoneria, scritto no comment, sì, la scritta cubitale è massoneria di Londra. Cosa avrebbe fatto questa massoneria? Questo sul coso, sull'elicottero, naturalmente. Bartolomeo Pepe evoca il complotto dietro l'attacco di Londra. In realtà, sul sito web ufficiale del Servizio di Soccorso di Londra si scopre che la massoneria di Londra ha donato più di 2 milioni di sterline. 2 milioni di sterline per l'elisoccorso. Pepe, ragazzi, mamma mia. Dai. E giustamente hanno messo il simbolo del compasso, evidente. Sì, no? L'avendolo donato. Dai. Va bene, andiamo. Ma se gli dico che è un deficiente, questo mi querela poi. No, vabbè, mica devi avere paura. Lui c'ha l'immunità. Ma non sì, paura. Ma no, no poi dico, se nel caso io gli dicessi che è un deficiente. Ah, nel caso, se lo dicessi, se lo se dovessi io dire. Dicessi che Bartolomeo Pepe è un deficiente, secondo te rischio una querela? Non lo voglio so, dire. Però no, dillo. Dico nel caso, sì. Adesso alle 20:23, sì, no? Sì, sì. Nel caso alle 20:23 dicessi che Bartolomeo Pepe, per quello che ha detto sull'elicottero che sarebbe stato donato, è un deficiente. Sì, secondo sì, te sì. Rischio una querela? Beh, non lo so, non credo. Nel, non nel credo. Caso lo dicessi, eh? Sì, nel caso tu dicessi caso che è un deficiente totale. Rischio esatto una querela? Non lo sì, so. Sì, non lo so, non te lo so chiedo. Vabbè, lasciamo così in sospeso. Marco, provincia di Novara, vai. Marco. Sì, buonasera. Dimmi. Pronto? Dimmi, ciao, vai, mi sentite? Sì, vai. Sì, ciao. Niente, volevo stare un po' su un argomento che ogni tanto salta fuori e poi sì, ognuno dice lassù, pim pum pam trifasan. Vabbè, ascoltami un po', io ce l'avevo con quegli sti pseudo terroristi, perlomeno, quelli che si salvano. Allora, io dico, quelli che si salvano, che non muoiono, quelli che vorrebbero... Ma i terroristi quali? Quelli degli attentati, dici tu, in generale? Sì, quelli degli attentati, kamikaze, tutta quella... Vabbè, allora... Marmaglia lì. Allora, il discorso è questo, ma questa gente qua che dice che loro immolano, vanno al martirio per poi andare nel paradiso con le 77 vergini, io dico... Vabbè, ma insomma... Vabbè. Ok, ma io dico, cominciamo a mettere in giro che la voce, o proprio proporre questa cosa, che se per caso gli va male, invece di andare nel paradiso con le 77 vergini, li prendiamo e li chiudiamo in un porcile con 77 scrofe. Capisci? Non mi pare una cosa. Non me... credo che cambi molto, che cambi molto le cose. Non ma credo che cambi così a livello proprio per fargli un po' di paura, sai, per dire guarda che non è così bello quello che tu vuoi fare, perché se ti va male non vai là, non è che ti mettono in un alberghetto, vai a finire là dentro insieme a 77 scrofe. Va bene, Tommaso da Chieti, vecchia ricetta questa qua. Tommaso da Chieti. Pronto? Dimmi Tommaso, dimmi. E niente, a parte che mia moglie dorme con me, tu prima hai sbagliato. Non ho capito, scusami. Allora, prima, sull'intervento di un signore di prima che ha trovato la moglie a letto con un altro, sì, dicevi Tommaso da Chieti, ma non ero io Tommaso da Chieti. Vabbè, un altro era, non so chi vabbè cazzo era. Non ho capito bene, Luigi, non so chi era, Luigi. Ah, vabbè. Comunque, no, io il mio intervento è per perché capisco le persone che quando si vedono dei ladri dentro casa sparano. E dico anche che... Per capire queste situazioni bisogna anche trovarsi in queste situazioni, non si può giudicare dal di fuori. Allora, io ti dico la mia esperienza, mi sono entrati dei ladri nel capannone, mi hanno fatto 300.000 euro di danni, io stavo ristrutturando l'azienda, stavo ingrandendo l'azienda, mi sono dovuto fermare per colpa di questi delinquenti e i carabinieri hanno arrestato più volte 3, 4 o 5 persone, più di una volta, forse sono arrestate una ventina di persone. Il giorno dopo sono fuori, ma non il giorno dopo, mentre io faccio la denuncia. Dunque sono d'accordo, e se io mi dovessi trovare in una situazione del genere sarei capace di ammazzare queste persone, perché ti rovinano la vita. Va bene, ciao Tommaso, ciao. Mm. Gruppi di vegani si sono incatenati davanti a un macello vicino Bergamo. Ragazzi, ma non avete veramente più un cazzo da fare. È finita, più, è no, finita questa farsa, è finita, arrendetevi, vi ho sconfitto, vi ho distrutto. Fatevi una bella bistecca, una pagliarda di vitello. Fate quello che volete, ma basta battervi contro lavoratori, non sono assassini, sono lavoratori, anche quelli che lavorano nei macelli. Quelli che lavorano nei macelli, quelli che arrivano lì con la carne, è inutile che bloccate i camion, che bloccate anche onesti lavoratori che ammazzano degli animali per campare. Ammazzano animali perché magari non sono nemmeno contenti, ma sono lavoratori. Cosa bloccate i macelli? È finita, certo. Siete morti, finiti, è una battaglia vecchia, siete l'ultima avanguardia, è un argomento finito, siete morti, siete ormai una minoranza. L'Italia per bene, l'Italia dei lavoratori, l'Italia dei coltivatori, l'Italia degli allevatori vi ha sconfitto, ha sconfitto. Ancora no, ancora c'è da battagliare, però ormai siete in rotta. Siete in rotta, siete in ritirata. L'Italia che lavora, l'Italia per bene, bravo, bravo. L'Italia della libertà, l'Italia che vuole mangiare quello che vuole, vi ha distrutto, vi ha fatto un culo così. Siete morti, finiti, distrutti e vi attaccate a un macello di Norovato, non so dove sia, in provincia di Bergamo, vicino Bergamo, dove vi fate incatenare la mattina presto. Basta, siete una minoranza sparuta. Noi siamo per la libertà, voi per l'imposizione. Siamo qui a Rovato, incatenati al mattatoio, al cancello. Siamo riusciti in maniera rocambolesca perché in pratica una pattuglia dei carabinieri ci ha fermato prima che entrassimo in azione al parcheggio. Nonostante tutto non ci siamo persi d'animo, ci hanno chiesto i documenti, se ne sono andati, sono venuti qui davanti, noi siamo arrivati con le nostre catene, parte ce le hanno portate via, quelle che ci sono rimaste le abbiamo utilizzate. Ci siamo incatenati al cancello, e calma e sangue freddo, non ci schiodiamo da qui. Adesso, oggi probabilmente avranno già avvisato chi di dovere e avranno bloccato il trasporto dei bovini, ancora meglio così. Ma abbiamo interrotto comunque un giorno di lavoro al mattatoio senza aver fatto soffrire nessuno, che comunque ha avuto qualche giorno di vita in più. Abbiamo concesso un giorno di vita in più ai bovini, ma ti rendi conto della follia? I mattatoi o non so, i macelli sono luoghi di morte. Beh, sì, certo, muore qualcuno, ma muoiono gli animali, che è una cosa diversa. Beh, certo. La gente probabilmente inizierebbe a capire che di fianco ha dei luoghi di morte. Cioè, qua abbiamo un bar che giustamente fa latte di soia e qua ammazzano le mucche, i bovini, i vitelli, gli agnelli, e la gente va al bar, poi si va a fare l'analisi del sangue come se niente fosse, quando qua ammazzano gli innocenti. Buonasera, amico. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti Lavoro. La Zanzara. Quanto vorrei pisciare nel lavandino a casa di Parenzo. Alla fiera dell'est per due soldi una slovacca mio padre trombo. Alla figa dell'est per due soldi una slovacca mio padre trombo. Quindi mi stai dicendo che ti potevi scopare una modella gratis e piuttosto hai dato 120 euro a due cinesi per farti una sega? Beh, amico mio, qui siamo al flop. No, siamo al top, altro che flop. È troppo facile la prima opzione, no? È la seconda opzione che è più perversa e più articolata. Dai, su, Davide, dai, su. Allora, però, notizie che arrivano dal quotidiano Libero. Dimmi, Libero, attenzione. Libero, sì. Titola, aperte, sì, virgolette, sì. Gli alieni esistono, virgola. Ci hanno già attaccati. Dice, cazzo, come? Le prove, dove è successo? Aperta parentesi, e tutti zitti. Apri e c'è questo alieno che arriva su un uomo. Sì, apri, sì, l'articolo, sì, e scopri in realtà che non c'è nessun cazzo di alieno che arriva da nessun cazzo di nessuno, ma non sarà più possibile tenere nascosta la verità. Secondo uno studioso, un blogger, tal Scott V. Warring, il governo ha sempre cercato di tenere nascosta la notizia che ci sarebbero gli alieni. Ecco, questa è la grande notizia: gli alieni esistono e presto non sarà più possibile negare la loro esistenza. Ma dai. Allora, a proposito sempre di vegani, noi non ci torniamo ormai praticamente più, sì. Però ogni tanto ci viene lo spunto, vegana con figlia. Credo che questo venga dalla trasmissione, dalla pregiata trasmissione della signora Innocenzi sulla sì. Rai. Tra l'altro vorrei avere delle informazioni su una cosa che riguarda uno dei partecipanti a questa trasmissione, ma ci arrivo fra poco. Sentite questa vegana intanto. Perché avete scelto di essere vegani? Come tutti i vegetariani, nel percorso cercavo un modo etico per consumare il latte, il formaggio e tutto quanto. E appunto per quello ero andata in questa famosa stalla a Vigliano a prendere questo latte delle mucche felici. E ti rendi conto che non può esistere una produzione di latte etica, non può esistere un latte senza la schiavitù e la sofferenza animale. Non può esistere latte senza sofferenza animale, senza la schiavitù delle mucche. Amico mio, la schiavitù è una roba seria. Non puoi metterti in bocca questa parola, schiavitù. È una roba seria che tu non conosci, voglio dire a questa qua. Non sai un cazzo sulla schiavitù, sull'Africa, su come è avvenuta la tratta degli schiavi, sull'America, sul Ku Klux Klan, su Martin Luther King. Non sai un cazzo. Le mucche non c'entrano nulla. Ignorante, bestia, animale, tu animale. Lo posso dire io, sì, animale. Ancora questa vegana con la figlia, senti. E cosa c'era nella stalla? Le mucche attaccate dei macchinari che prendevano tutto il latte e i vitelli dentro un capannone. Come dovrebbero stare le mucche? Libere. Io ragazzi, se mia figlia è più grande di questa bambina che abbiamo sentito, e spero sia stata data l'autorizzazione naturalmente per l'apparizione e per la voce di questa bambina. Beh, certo. Ma in ogni caso, se mia figlia mi fa questo ragionamento, le mucche devono restare attaccate a dei non possono stare attaccate dei macchinari, ti giuro mi dimetto da padre. Ma mi dimetto proprio, mi dimetto. Non si può dimettersi da padre, non ci si può dimettere, però mi dimetto da padre. Mi dimetto da padre. Ci si può dimettere allora, solo 24 ore, ma non da padre, sì, ti esatto. Voglio dire. Questo te lo voglio dire. Questo ecco. È vero. Allora, un signore che pare che partecipi alla trasmissione in maniera stabile, sembra, alla trasmissione della signora Innocenzi su Rai 2, si chiama Vassallo, Valerio Vassallo, che voi conoscete ottimo. Bene. Sì, però io voglio capire una cosa, ma... È finito il processo per stalking? È ancora in corso il processo per stalking? Perché sarebbe abbastanza grave se un signore che ha accusato. Il servizio pubblico soprattutto. Un signore che ha accusato di avere stalkerizzato anche con, come dire, con atti violenti, sembra, da quello che leggiamo, eccetera, di avere stalkerizzato la propria fidanzata e per questo è stato addirittura in galera. Ma noi non siamo colpevolisti. Diciamo semplicemente: è ancora in corso quel processo per stalking? Per cui il signor Vassallo è andato in galera oppure no? Perché se è ancora in corso e non si sono chiarite le cose, che il servizio pubblico si affidi per una trasmissione ad un signore che ha accusato di avere picchiato, tra virgolette, o comunque stalkerizzato la sua fidanzata, ripeto, accusato, essendo stato in galera, secondo me qualche piccolo pensierino dovrebbe venire. Comunque lasciamo perdere questa cosa qui che mi è venuta in mente semplicemente perché ho letto un articolo in cui c'era scritto collaboratore fisso della trasmissione della signora Innocenzi, su cui non ho nulla in contrario, tutt'altro. Anzi, la considero comunque un elemento di libertà, assolutamente certo. Libertà, però la partecipazione spero che sia a titolo gratuito, come dire, no? Beh. Sei musulmano, sì. Quindi un animale lo sgozzate, macerazione sì. Halal, giusto? Sì. E secondo te non soffre? Beh, soffre, però ogni religione c'è come... Ma secondo te è giusta o sbagliata? Secondo me è giusto perché Dio le ha create per farci il cibo. E chi te l'ha detto che Dio le ha creati per essere cibo? Perché c'è scritto. Va bene ragazzi, dove andiamo? Andiamo. Fermi tutti, è iniziato dimmi. Dalla vostra parte, è iniziato dalla vostra parte. Vedo già su Twitter i primi commenti, ad esempio, di gente che comincia a scrivere. Dalla vostra parte c'è ospite Martinelli, vomito. Perché vomito? Povero Martinelli, poverino, perché? Martinelli è quello di sinistra, immagino, no? No, ma Martinelli magari sarà quello del coso. Martinelli sarà quello delle 5 Stelle. 5 Stelle. Vabbè, ma chi se ne frega dalla vostra parte? Dai, Umberto da Milano, dai, Umberto. Senti Cruciani, io voglio chiederti perché continui a dire sta cazzata che sì, ognuno in casa fa quello che gli pare. Perché lo penso, sono convinto di questo, posso sbagliare, è una mia così idea, la rivendico. Tu non sei così ignorante. Ma cosa c'entra sapere, l'ignoranza? Cosa è una cazzata? Tu sai bene, in casa non è una zona franca dove non vale la legge dello Stato. Non ho detto questo. Non ho detto vale questo. La legge ho, dello Stato. Ho detto che la legge dello Stato, secondo me, dovrebbe essere modificata. Infatti, ho detto che dovrebbe essere modificata, dando facoltà a chi è dentro le proprie mura domestiche o comunque all'interno di una zona che è di sua proprietà, dovrebbe essere data la possibilità di difendersi in qualsiasi modo. Cioè, la questione legittima difesa non esiste dentro casa. La bici, tu hai diritto non di lo sparargli. Sai se ti ruba solo la bici o deve stuprare tua moglie, chiaro o no? Esatto, non lo sai. Però se ti ruba la bici non è valido. E poi tu come non hai capito ancora? Non lo sai se vuole rubare solo la bici o vuole stuprare tua moglie. Siccome c'è gente che ti prende sul serio, c'è gente che si aspetta che uno ucciso in casa non si debba neanche fare il processo, perché tu io non ho detto il amico mio, il discorso è molto semplice. Se dentro casa tu reagisci ad una persona che entra dentro e tu hai il coraggio, la forza, la determinazione, il sangue freddo di reagire sparando, secondo me non ti deve succedere nulla, niente. Lo so, ma questa niente. Cosa va curata, tu come non va curata? Che vuol dire va curata? Non appurata. Ma va appurata cosa? Va appurata? Va appurata la reazione, il tipo di reazione. Un giorno, guardate, ho sparato qualcuno in casa mia e loro ti dicono va bene, lo metta pure nell'umido tutto a posto. Bravo. Come se l'aspetta? Non è così, non è così. Esattamente questo è il punto. Non è così, dentro casa propria, a meno che uno non ci abbia. Non puoi se hai un'arma, ma no, la tortura non c'entra. Ma che c'entra la tortura? Ma no, ma sto dicendo che le leggi italiane, a mio parere, vanno modificate e va data la possibilità a chi sta dentro casa di reagire come vuole. Ma lo devi dimostrare, devi dimostrare che è quello che è entrato in casa. Devi dimostrare la proporzione. Ma che c'entra? Non puoi invitare una persona in casa, ucciderlo, poi chiamare i carabinieri. Ma che dire, questo invitata. Qui è entrato in casa mia. Ma che c'è? Ma quelle sono casi limite, dai. Ma che vuol dire? Ma il limite è un corno. Ma sì, cioè, ciao, la legalità è la legalità. Ciao, grazie. Ma che stiamo scherzando? Bravo. Allora ragazzi, la commissione antimafia sta discutendo, perché adesso vi introduco la commissione antimafia. Come sai Parenzo, c'è tutta una discussione che ancora non abbiamo affrontato in questa trasmissione, ma che vale la pena affrontare, su legami possibili tra elementi dell'Andrangheta e la Juventus, e la dirigenza della Juventus, per la questione dei biglietti, la gestione dei biglietti, certo, eccetera. Ma a noi non ce ne frega niente in questo momento, è una vicenda molto complessa. Nulla, meno di nulla. Però la commissione antimafia, che è un grande luogo di discussione, spesso inutile, secondo me va soppressa la commissione antimafia, te lo dico. È un luogo di esibizionismo che non serve assolutamente a nulla, la chiese, non serve Papa, a nulla, la commissione antimafia va cancellata. Ma lascia perdere adesso la vicenda di Anni. Va cancellata, non serve. Servono i magistrati, non serve la commissione. Anche importante è un luogo che la spesso politica direttamente si assuma la responsabilità. È un luogo spesso di puro esibizionismo, in cui in realtà non vengono discusse cose concrete. No, poi come non si... no. No, ma viene spesso un le luogo. Liste vengono ma messe che liste, in discussione. Dai, hanno fatto un casino giunte, con De Luca. Le comunque, amministrazioni. Se ne è discusso anche di questa vicenda ormai da tempo all'interno della commissione antimafia, cioè i legami possibili tra Agnelli e l'Andrangheta. Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Uno che fa parte della commissione antimafia si chiama Taglialatela. Ed è è un deputato. Si chiama un nome di battaglia, sarà? No, si chiama così. Ma perché cazzo di male c'è a chiamarsi Taglialatela? Non lo so, per carità, però è un deputato partenopeo, tifoso del Napoli, sì. È famoso non per quello che fa in Parlamento, almeno secondo me, ma per aver esposto una sciarpa insieme al signor La Russa con scritto Juve merda davanti. Una sciarpa con scritto Juve merda. Ora, a mio parere, questo signore non può giudicare serenamente cosa è accaduto Shea Juventus, no? Comunque sentiamolo. The Queen made me a knight. The Pope made me a saint. Pronto? Sì, taglia la tela? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? E Parenzo, salve. Sì, salve, buonasera. Come andiamo? Taglia la tela. Bene, bene. Senta, voglio capire una cosa, ma lei fa parte della commissione antimafia? Sì, ci faccio parte da moltissimi anni. Ecco, sì. Ma che ne pensa di tutta questa storia? Perché non si è sentita la sua opinione in questi giorni, di questa storia di Agnelli, insomma. Sono convinto che da parte della società sia stato sottovalutato, nella migliore delle ipotesi, il ruolo dell'indagato per reati così gravi come quelli dell'appartenenza alla 'Ndrangheta. Le pare dal punto di vista sportivo che Agnelli debba essere punito? Guardi, a me non interessa una punizione di Agnelli, francamente. E cosa le interessa? Preferisco la Juventus, da tifoso del Napoli, batterla sul campo. Quello che a me interessa è che il calcio faccia i conti con quello che purtroppo esiste, in qualche modo la sottomissione da parte delle società nei confronti degli ultra. Ma quello avviene per tutte le squadre, però, non è che solo però per la Juventus. Guardi, io per carità, è vero che io non sono un soggetto idoneo ad essere considerato al di sopra delle parti, nel senso che soprattutto sono... perché lei dice non bisogna sottomettersi agli ultra, ma c'è una fotografia in cui lei ha questa sciarpa con scritto Juve merda. E questo che c'entra con gli ultra che fanno violenze? Non è un messaggio di pace, diciamo. Poi lei là, no? Ha anche un ruolo istituzionale, caro. Per carità, ma io nel momento in cui definisco una squadra in maniera negativa, non mi pare che questo non mi possa permettere di esprimere le mie posizioni. Cioè, secondo lei la Juve è merda? Però lei non è un ultras, credo, no? Io non sono assolutamente, da un punto di vista della passione e del tifo nei confronti del calcio Napoli, lo sono. Cioè, lei è un ultras del Napoli? Assolutamente sì. Cioè, dire Juve merda è normale? È una cosa che ogni tanto, da un punto di vista calcistico, diverte. Cioè, lei lo dice ogni tanto allo stadio, è Juve merda, Juve merda, che ne so. Qualche volta sì, quando lo merita assolutamente sì. E allora non si può lamentare quando Salvini canta la canzone sul Vesuvio, perché anche quella... Che ci sia una differenza fondamentale. No, anche lui, a me sa, non sta simpatico Salvini, e siccome Salvini dice io sono un tifoso del Milan e il è ora un canto contro il Napoli. Puzza no, napoletani, non era, non era un senti canto quanto puzza. No, scusi, era un canto contro la città. No, ma è un coro calcistico, è però un coro calcistico. Salvini non sta simpatico. Allora, ma se lei dice Juve merda ed è un rappresentante delle istituzioni, non si può poi lamentare se qualcuno se la prende con lei perché dice Juve merda. Scusi, ma significa augurarsi che i napoletani vengano lavati col fuoco è la stessa cosa? No, ma ci sono cori calcistici. È un coro comunque calcistico. Ma scusi, professore, però confronti di Napoli città e dei napoletani, a prescindere dalla vicenda del tifo calcistico, vi è un atteggiamento di pregiudizio. Sì, d'accordo, ma lei è un rappresentante delle istituzioni e ha esposto una sciarpa e dice anche che è normale gridare Juve merda allo stadio. Ammetterà che rispetto ai tifosi... Quando se lo merita è assolutamente normale. Quando se lo merita, scusi? Quando ci sono dei favori arbitrali, quando si comporta... Perché la Juve è favorita dagli arbitri, scusi? Beh, mi pare proprio di sì. Cioè la Juve è favorita dagli arbitri? Cioè i campionati sono falsati, secondo lei? Beh, mi pare che alla Juventus siamo stati revocati degli scudetti. No, prima, anche adesso sono falsati i campionati. Lei immagina che quello che è accaduto nel passato ed è stato provato non possa accadere nel presente? E dunque lei dice che anche adesso viene favorita dagli arbitri, i campionati dunque sono falsati? Io penso che la Juve sia sicuramente la squadra che riceve favori arbitrali. E dunque oggi la conseguenza che le deve dire che i campionati sono falsati. Appunto. Lo verificheremo, certo. Il fatto che gli arbitri stringano le mani, abbraccino i giocatori, non è un bel modo di vedere le partite. Scusi, ma questo lo fanno per tutti, lo fanno con tutti. Questo non glielo so dire. Soprattutto con i tifosi. Lei dice che gli arbitri hanno una familiarità eccessiva con i giocatori della Juventus. Sospetta. Beh, io so che gli arbitri sono sponsorizzati dalla Fiat e quindi dalla Juventus. Prendono soldi. Ma non è vero che prendono soldi dalla Fiat e dalla Juventus. Non è vero, no? È falso. Ma come non è vero? È assolutamente vero. Cioè, gli arbitri prendono soldi dalla Fiat. Gli arbitri hanno una... La federazione arbitrale ha una sponsorizzazione di una società che fa capo alla Fiat. Guardi, a me non mi risulta questo qua. Allora si informi tra il giornalista. Può darsi, in questo caso è un po' ignorante. Può darsi che io sia ignorante, ma non credo proprio. Secondo non credo. Me per è un elemento che per un'esigenza di chiarezza sarebbe meglio evitare. Va bene, grazie, taglia la tela, grazie. Prego. Allora ragazzi, la notizia che gli sponsor degli arbitri, questa società di assicurazione, com'è che si chiama, Eurovita, Provita, non c'entra niente, non mi ricordo quella nemmeno. È un'altra cosa. Sì, quella è un'altra cosa. Questa società è collegata alla Fiat 2, sarebbe eccetera, è una bufala colossale, dunque com'era ampiamente prevedibile, l'ignorante non sono io ma è il signore che ha parlato prima, che mi pare particolarmente deputato, grave, no? mi pare particolarmente grave che un deputato della Repubblica dica una cosa ricamata o presa su internet, cioè che una società che sponsorizza gli arbitri, che perché è presente sul, no, il marchio sulla casacca degli arbitri. Bravo. Sia collegata alla Juventus, dice: balla. La Juventus paga gli arbitri attraverso questo sponsor. La è follia. Una bufala colossale. È una bufala colossale. Lo dice un deputato della Repubblica, il quale si vanta di dire anche Juve merda allo stadio. Siamo ridotti in questo modo, ragazzi. Ma questo lo direi anche di uno della Juventus, certo, che dice Roma merda. Te lo ricordi, no? Il senatore, sì, Esposito, come no, l'anno scorso. Dai. Comunque ti dico questo: lui taglia la tela, io taglio la corda perché sono le 20:51. Ma chi c'è? C'è un sacco di gente da sentire. Ma chi c'è? Domani, Daniele domani. Da Roma. Voleva domani, parlare, domani. Credo, da quello che lo qua delle mistress. Domani, domani. Paolo da Milano, un ristoratore non che si sente autore, che ha subito. Se Paolo, amico mio, sono Paolo. Fuori orario sindacale. Paolo. Sì, dimmi. Quante rapine hai subito? Quante rapine hai subito? Sette furti in due mesi. Con te domani faccio uno speciale. Speciale, ecco, Paolo, ecco, da Milano, bravo, ti richiamo. Focus. A domani, ragazzi. Viva la zanzara, viva la libertà, sempre. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Munnez, parlate di Pucciac. Radio 24, libera la voglia di fare.